Fiore di melo, il canto della terra verso il cielo. Volava con i piedi saldi al suolo, generoso e testardo, più d'un mulo che si impunta davanti a un muricciolo. Fiore di pruno, c'è chi sta fermo e c'è chi va lontano. Poi c'è il vino cattivo e quello buono, c'è chi la vita sua la vive in vano. La sua, lui l'ha vissuta in toto e in vino. Fiore di fosso, cosa beve il Signore, bianco o rosso? Forse da lì è partito il primo passo. Se non era da lì, per me è lo stesso, come gettare nello stagno un sasso. Fiore di serra, cassoulet, kaiserfleisch e butifarra, barolo di Monforte e della Morra, vigneti di Sant'Adi e controguerra, questo vuol dire camminare la terra. Fior di cicoria, pur con un circo intorno d'arte varia, mangiare e bere è una cosa seria, coinvolge il futuro e la memoria, e mescola il presente con la storia. Fior di ginestra, la storia ci insegnarono è maestra di vita, forse sì, non della nostra vita spavalda che tutta si mostra, la storia è una donna alla finestra. Seguito, pensavate fosse finita, no? Fiore di calla, com'è bella la vita quando è bella, abbracci e baci, tango e tarantella, cercare tutto, non temere nulla, avere il cuore per unica molla. Fiore di rosa, annusa, guarda, assaggia, riannusa, vigneti cattedrale, vigna chiesa, c'è dentro ogni bicchiere una sorpresa, è come entrare da una porta chiusa. Fior di lichene, compagno di mie tavole serene, versare il vino, masticare il pane, dire dell'uomo senza più catene in altri luoghi e sotto altre lune. Fiore di croco, evento, sole, terra, pioggia e fuoco, lui così nuovo e insieme così antico. È stato tanto bello essergli amico, peccato sia durato troppo poco. Fiore di viola, pensa a quant'era bella la parola che s'alza in piedi e corre e poi si invola. Marezzata allegria di questa sala, voi portatemi il vino che consola. Fior di gaggia, mettiamo al bando la malinconia e poi brindiamo alla memoria sua. Non c'è bottiglia che lo porti viva, che lo porti via. Viva sempre l'amore e l'anarchia. Fior di giardino, in controluce, col bicchiere in mano, lo accosto con rispetto, piano piano. Mi parla amico e allora mi avvicino e bevo un po' di vino e un po' di gino. Grazie, grazie Gianni Mura.